TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Dopo la neve e la bora, soprattutto a Trieste, il gelo ha complicato la mattinata in città e nei comuni limitrofi. Scuole chiuse nei comuni di Trieste, Muggia, Sant'Orligo della Valle, Monrupino. Rimangono aperte quelle di Duino, Aurisina e Sgonicco. Le zone più alte della città e quelle maggiormente esposte al vento hanno visto la comparsa di ghiaccio sui marciapiedi. Ad Opicina sono andati a ruba i sacchi di sale a disposizione dei cittadini. E il cittadino di nazionalità croata Marin Jelenic, 36 anni, al momento il principale indiziato per l'assassinio del capotreno Alessandro Ambrosi a Bologna, si era già reso protagonista di un episodio violento a Udine. Lo scorso ottobre aveva messo a soqquadro un ipermercato. Il suo gesto è stato ripreso dalle telecamere. Nel corso del giornale radio conosceremo la nuova questora di Pordenone, Graziella Colasanto, che prende oggi servizio. Con il questore di Gorizia, Luigi Di Ruscio, invece faremo il bilancio di un anno di attività. Sostanze eterne composte da molecole indistruttibili sono i nuovi inquinanti e sono migliaia, tanti da non essere stati ancora regolamentati, pur avendo effetti sulla salute umana e sull'ambiente. Si tratta di materiali presentissimi nella nostra vita quotidiana, per esempio compongono i rivestimenti delle padelle antiaderenti. Il Natale serbo, celebrato nella bellissima e suggestiva chiesa di San Spiridione a Trieste, commozione e raccoglimento nel tempio, che è anche luogo identitario di una comunità antica e parte integrante del tessuto sociale triestino. Le tradizioni epifaniche, il fumo del Pinarul Grandicoia a Tarcento è salito dritto e poi ha girato verso nord per il vecchio venerando Andrea Maroelli. Auspici per il nuovo anno, dettati dalla traiettoria del fumo, purtroppo non sono dei migliori e pochi se ne sono rimasti sorpresi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Andrei Maruscic e Antonio Cagliazza. Dopo la neve e la bora, oggi erano diverse a Trieste le strade ricoperte da pericolose lastre di ghiaccio. A diminuire la circolazione automobilistica in città, anche la decisione di tenere chiuse le scuole. Un inatteso giorno in più di vacanza, gradito più dagli studenti che dai genitori degli allievi più piccoli. Il mare increspato, le salite gelate, i giardini imbiancati e le scuole di ogni ordine e grado chiuse precauzionalmente dal comune. Durissima per noi genitori, oggi, racconta una mamma con due bimbe al seguito, dopo una vacanza di Natale tanto lunga, oggi proprio non ci voleva la scuola chiusa. Sono turnista, racconta un papà, con un bimbo piccolo per mano. Però chi non ha la mia fortuna, è dura. Non scendono più fiocchi di neve a Trieste, ma i disagi permangono e la bora soffia ancora forte. Nella notte la raffica massima ha raggiunto i 110 km orari e nella giornata resterà sostenuta 80-90 km. Ed è proprio la combinazione di neve al suolo e vento forte a preoccupare in una città di mare che raramente si vede imbiancata. Il problema, dice Walter Milocchi, comandante della polizia locale, non sono tanto le strade dove 12 mezzi spargi sale lavorano senza sosta, ma i marciapiedi che possono trasformarsi in lastre di ghiaccio a ridosso di scuole e ospedali. Il sale viene garantito dal comune, ma nei marciapiedi, spiega, dovrebbero pensarci i privati e non è semplice. Andati a ruba i sacchi di sale messi a disposizione nei container in attesa di rifornimento. Non si registrano incidenti gravi a causa del gelo né accessi specifici in pronto soccorso. Trieste Trasporti non segnala problemi di viabilità. La neve, scesa copiosa soprattutto sul Carso, in realtà ha visto un accumulo massimo di 15 cm nelle zone più alte della città verso il confine orientale. Ma la neve in regione ha imbiancato persino le spiagge di Lignano e Grado ed è arrivata in pianura da Gorizia a Udine, ma non in montagna. Domani ARPA prevede cielo sereno, ma temperature rigide, meno 6, meno 8 gradi in pianura, meno 12, 15 a Tarvisio. E se Piazza Unità è ancora vestita di Natale con i suoi abeti, l'intelligenza artificiale sul web la trasforma in una pista da sci e al posto dell'orvovia c'è la seggiovia. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia. Le 12.34 dunque diamo uno sguardo al meteo, cielo nuvoloso su pianura e costa, da sereno a variabile in montagna, le temperature registrate alle 11. Trieste 2,5 gradi, vento da est-nord-est bora a 48 km orari con raffiche che hanno raggiunto i 97 km orari. Gorizia 3,5 gradi, Udine 2, Pordenone 1 grado. Tolmezzo 0 gradi, Forni di Sopra meno 3, Piancavallo meno 3,5, Tarvisio meno 5, Sappada e Monte Zoncolan meno 10, Monte Lussari meno 11,5, a Lignano e a Grado i gradi sono 3. Ed ecco le previsioni: dal pomeriggio diminuzione della nuvolosità ad iniziare da ovest, sulla costa bora da moderata a sostenuta. Uno sguardo a domani: cielo in prevalenza poco nuvoloso ma con un graduale aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio. Domani temperature sotto la norma con estese gelate notturne. Era passato per Udine Marin Jelenic, l'uomo che avrebbe ucciso a Bologna il 5 gennaio un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio. A Udine Jelenic, cittadino croato, aveva devastato in ottobre un supermercato in via Vittorio Veneto. Abbiamo incontrato il titolare del negozio, Alfredo Vasto, che ben ricorda quell'episodio e ha subito riconosciuto la persona. Lei ha riconosciuto subito questa persona dalle foto segnalettiche trasmesse dai media? Sì, è un viso che è abbastanza riconoscibile, si vedeva, ho visto subito che era lui. Sono andato a cercare tra i miei video appunto questa persona e ho visto subito chi era. Ecco. Cosa è successo quel giorno? Lui è entrato, era una sera di ottobre alle 8:30, ha rubato delle birre, è stato fermato nei pressi delle casse, non voleva pagarle, al che gli è stato detto che avremmo chiamato i carabinieri. Lui, con aria molto spavalda, ha cominciato a mangiare tutto quello che trovava in giro, si è seduto lì vicino alle casse e aspettava i carabinieri, sapendo che tanto non gli avrebbero fatto nulla. Ha preso a calci diversi espositori, come li chiamate voi, sono dei piccoli scaffali, e ha anche mangiato, diciamo, tutta una serie di cioccolatini come se non avesse un limite. Cosa ha pensato quando poi ha saputo che cosa è successo a Bologna? Quando ho visto dell'accaduto di Bologna ho pensato che lì poteva esserci anche qualche nostro collaboratore, poteva essere chiunque, noi come qualcun altro, però si capiva che era una persona che non, emotivamente non era una persona stabile. Quanto è stato eccezionale questo episodio? Ma per noi non più di tanto, perché comunque episodi come questi non dico che sono all'ordine del giorno, ma capitano molto spesso. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Assume oggi l'incarico la nuova questora di Pordenone, si chiama Graziella Colasanto e prende il posto di Giuseppe Solimene. La dottoressa Colasanto aveva diretto il compartimento di polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. Impegno, serietà e passione sono i suoi punti di riferimento. Graziella Colasanto è la nuova questora di Pordenone. Insediata oggi, arriva dal compartimento di polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. Sicuramente vorrò continuare sul solco che appunto hanno tracciato i miei predecessori, quindi un solco molto virtuoso che abbiamo potuto constatare che ha dato sicuramente già degli ottimi risultati, soprattutto appunto in questo periodo di festività. I temi che sono a me più cari sono sicuramente quelli della prevenzione e dei rapporti con la cittadinanza, che ci offre il termometro di quella che è la mappa della sicurezza, e la sinergia con tutti gli attori istituzionali e non del sistema della sicurezza. Tra i temi prioritari anche disagio giovanile, con il fenomeno delle baby gang da affrontare, dice, a 360 gradi, e la violenza di genere. Esperta di gestione dei grandi eventi e pronta ad affrontare la sfida di capitale della cultura. Con la guida sapiente del nostro prefetto La Stella avremo la possibilità di confrontarci e disegnare un percorso con tutti gli attori coinvolti appunto in questa bellissima avventura. 60 anni fra pochi giorni, Colasanto è la prima donna ad assumere l'incarico di questore in Friuli Occidentale. Io e le mie colleghe con cui abbiamo iniziato appunto questo percorso ormai 40 anni fa, diciamo, siamo state un po' le pioniere, e quindi raggiungere questi traguardi è veramente per me un motivo di orgoglio per la nostra categoria di donne funzionario, che abbiamo intrapreso all'epoca un percorso che sicuramente aveva davanti tanti punti di domanda. Ecco, quindi arrivare a ricoprire determinati incarichi non può che essere un motivo sicuramente di grande soddisfazione. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. E dalla questura di Pordenone a quella di Gorizia, dove stamattina il responsabile Luigi Di Ruscio ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nel 2025 dalla Polizia di Stato. Un anno molto intenso ma più che positivo, così ha definito il 2025 il questore di Gorizia Luigi Di Ruscio, tracciando un bilancio dell'attività della polizia in provincia. A confermare il giudizio, un dato su tutti: tra dicembre 2024 e novembre 2025, in attesa dei numeri consolidati anche sull'ultimo mese dell'anno, si è registrata una diminuzione dei reati attorno al 5%, per un totale complessivo di circa 4.200 denunce. Un risultato importante, visto che l'anno della capitale europea della cultura ha quintuplicato le presenze in provincia, e ci si sarebbe dunque potuti aspettare che i reati crescessero. Proprio Go 2025 ha richiesto alla polizia uno sforzo importante con la gestione di tutti gli appuntamenti più delicati, dalle cerimonie di apertura e chiusura ai grandi concerti, al passaggio del Giro d'Italia, e un rafforzamento della sempre più stretta collaborazione con i colleghi di Nova Gorizia. Il questore Di Ruscio. Sono stati espletati 3.000 servizi di ordine pubblico, impegnati 60.000 uomini, fatti diversi arresti e persone a piede libero denunciate, quindi una mole di lavoro enorme, compresa tutta l'attività preventiva. Molto intensa anche l'attività della polizia di frontiera in un territorio coinvolto da vicino sul fronte dei controlli legati alla sospensione del trattato di Schengen sulla libera circolazione. Sono state identificate qualcosa come 600.000 persone, sono stati fatti solo dalla polizia di frontiera 50 arresti nell'arco dell'anno, e parliamo di passeri, di gente che ovviamente si occupava di migrazione clandestina, intercettate armi anche in quantità importanti. Intensa infine anche l'attività di prevenzione contro bullismo, cyberbullismo e violenza di genere, con molti incontri nelle scuole, e poi quella contro i furti in casa e le truffe informatiche e telefoniche, anche se risultata in calo nell'ultimo anno. Gorizia, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Non bastavano i vecchi e ben noti inquinanti a minacciare l'ambiente e la salute umana, ci sono anche 4.000 sostanze definite nuovi inquinanti o contaminanti emergenti. Ne abbiamo parlato stamattina a Buongiorno Regione con qualche consiglio utile di prevenzione quotidiana. Sono sostanze eterne, composte da molecole indistruttibili e così stabili da arrivare fino negli strati più alti dell'atmosfera terrestre e distruggere l'ozono. Sono i nuovi inquinanti, migliaia di sostanze che, pur avendo un effetto sulla salute umana e sull'ambiente, non sono state ancora regolamentate. Sono ad esempio nella plastica, refrigeranti e anche negli impermeabilizzanti PFAS, quelli usati ad esempio per rivestire le padelle antiaderenti. A proposito, quelle padelle sono sicure? Pierluigi Barbieri, chimico ambientale, professore all'Università di Trieste. Cucino molto e le ho sostituite, diciamo, in casa non tutti siamo allineati. Su questo, no. Perché sono comode, no? Il problema è sempre esattamente quello. Però, insomma, ecco. Alternative ci sono. Entro il 2035, ad esempio, le società multiservizi dovranno implementare dei dispositivi per rimuoverli dalle acque reflue nei depuratori. Si tratta di 4.000 sostanze diverse, questi composti perfluorurati, alcune delle quali sono molto diffuse, altre molto di meno. No? E la rimozione di queste sostanze, appunto, è uno degli aspetti importanti. Abbiamo avuto, ad esempio in Veneto, dei casi di contaminazione molto, molto importante. E così anche il nuovo depuratore di Trieste, inaugurato nel 2018, dovrà adeguarsi alla nuova normativa europea per filtrare le microplastiche. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è molto attenta nei controlli e abbiamo anche l'attenzione dell'azienda sanitaria, del sistema sanitario regionale, con cui lavoriamo sinergicamente. Dal 2023 l'Università di Trieste è impegnata nel progetto di divulgazione chiamato CASI, Chimica, Ambiente, Salute e Innovazione, proprio per aumentare la consapevolezza tra la popolazione sugli inquinanti emergenti. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ed ora gli auguri di Buon Natale alla comunità serba che celebra oggi questa festività nel rispetto del calendario giuliano. Stamattina la solenne liturgia di Natale nel Tempio serbo-ortodosso di San Spiridione, nel cuore del borgo teresiano. Un rametto di quercia e la paglia sono i simboli del Natale della comunità serbo-ortodossa che si celebra oggi secondo il calendario giuliano. Più di un centinaio di fedeli si sono ritrovati stamattina nella chiesa di San Spiridione a Trieste, serbi per più della metà, ma anche ortodossi russi, ucraini, moldavi. All'ingresso ci si scambia gli auguri, Christos erodi, Cristo è nato, poi inizia la celebrazione accompagnata dai canti. Padre Rasko Radovic lancia un messaggio messaggio di pace. Il mondo è confuso, diviso, afferma, e lo è anche la comunità ortodossa. Ma Trieste, con la sua convivenza di diverse nazionalità e religioni, deve essere un esempio virtuoso. La messa è anche un'occasione per salutarsi con amici che non si vedeva da tempo, prima di tornare a casa a preparare il pranzo con cibi tradizionali, come le sarma, involtini di vite ripieni di carne e riso, e poi la carne allo spiedo. Già ieri, ci racconta il vicepresidente della comunità serba Miroslav Milisavljevic, nella sede della comunità si è festeggiata insieme la vigilia di Natale. Sono circa 10.000 i serbi di Trieste, anche se all'anagrafe ne risultano molti di meno perché tanti hanno la cittadinanza italiana, dopo molti anni che sono qui. La maggior parte di loro è emigrata durante e appena dopo la guerra nell'ex Jugoslavia e tanti per la crisi economica che ne è seguita. Vivace è la loro attività culturale, portata avanti da 3 associazioni che organizzano incontri, mostre e concerti, riunite nell'Unione Culturale dei Serbi in Italia. Parliamo con la presidente dell'Unione, Lidia Radovanovic. Noi cerchiamo di mantenere sì le nostre radici, perché quando le radici sono forti e anche le persone sono persone che poi riescono a dare tanto, ma poi anche di integrarci e fare tante le attività sia con diverse comunità che sul territorio triestino operano, ma soprattutto chiaramente con i fratelli italiani. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Ieri sera si sono ripetute le accensioni dei fuochi epifanici, tra le più conosciute e antiche tradizioni del 6 gennaio in regione. Il fumo del Pignarul Grant di Coia a Tarcento è salito dritto e poi ha girato verso nord. Per il vecchio venerando Andrea Maroè, gli auspici per il nuovo anno, dettati dalla traiettoria del fumo, purtroppo non sono dei migliori. L'auspicio per tutti quanti non è buonissimo, perché il fuoco prima è andato salito dritto e poi è andato a girare un po' verso nord. Ma l'idea è che tutti noi, non occorre che andiamo al mercato, non andiamo in giro per il mondo, ma dobbiamo impegnarci assolutamente per fare in modo che le cose migliorino. Perché comunque quest'anno sarà un anno difficile dal punto di vista geopolitico, economico, ma se ci mettiamo insieme, soprattutto i giovani mettono il loro contributo, credo che riusciamo a trasformare anche quella che è una possibile situazione, anche drammatica, possiamo trasformarla in un'opportunità per tutti quanti. In Val Rosandra nell'Ottocento c'erano oltre 30 mulini, erano fonte di reddito e luoghi di aggregazione, un patrimonio che è stato spazzato via dal tempo ma che rivive grazie al documento raccolto da Maurizio Radacic e pubblicato con fondi europei. I mulini ad acqua sono ormai una tecnologia che appartiene al passato. Immaginarseli in prossimità di Trieste non è affatto intuitivo. Eppure, lungo il Rosandra si trovano ancora le macine, vecchi mulini trasformati in abitazioni. Maurizio Radacic, che per decenni ha raccolto foto e materiale archivistico sui mulini in Val Rosandra, ha pubblicato con il Centro di Ricerche di Capodistria un libro bilingue sui mulini grazie ai fondi del progetto europeo Interreg Engrin 2. Ci troviamo a Bagnoli della Rosandra e tutte le pietre attorno a noi sono delle macine dei mulini. Mulini che erano un tempo fonte di reddito lungo il torrente Rosandra. Da quando iniziano a costruire i mulini? Notizie certe le abbiamo dal 1276. Abbiamo un atto praticamente di acquisto di un mulino, dove Puzzelle acquista questo mulino. E poi la vera espansione arriva con l'espansione del porto tra il 1700 e il 1900. Siamo alla fine dell'Ottocento, abbiamo più di 30 mulini lungo il corso del torrente. Ma quello che al momento ci interessa è che a Trieste succede un fatto importantissimo. Porto Franco, tante navi in porto, bisognava sfamare anche questi marinai e usavano le famose biscotti da nave, ovvero le gallette, e serviva la farina per farli. Di fatto che alla mattonaia viene realizzato nel 1788 questo mulino chiamato Mulino della città di Trieste. I mulini però non erano solo fonte di reddito, erano proprio quasi un luogo di incontro, erano un luogo di mercato. la gente che si recava al mulino era come un po' il gazzettino e che parlava di quello che succedeva, delle persone che morivano, di quelli che nascevano, delle situazioni politiche. Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. All'età di 85 anni si è spento ieri Giampaolo Tosel, storico magistrato friulano, protagonista di alcune grandi inchieste, tra le quali quella sulle Brigate Rosse. È stato procuratore capo di Udine fra il 1989 e il 2000, quando lasciò la magistratura e ricoprì vari incarichi, tra cui quello di difensore civico regionale. Tosel è stato anche un grande appassionato di calcio e ha ricoperto diversi ruoli nell'ambito della giustizia sportiva. I funerali si terranno venerdì alle 12 alla Casa Funeraria Mansutti in via Calvario a Udine. Lo sport, impegno infrasettimanale per l'Udinese che scenderà in campo in trasferta allo Stadio Olimpico di Torino contro i Granata alle 20:45. Le due compagini gravitano a metà classifica e sono distanziate di un solo punto, 23 quelli del Toro, 22 per l'Udinese. Gli uomini di Runjajić sono reduci dalla sconfitta contro il Como, mentre il Torino nella giornata precedente si è imposto 3-0 contro il Verona in trasferta. Tra i pali si potrebbe rivedere Okoye e scenderà in campo con l'11 titolare pure Solé. Intanto ieri i friulani hanno ufficializzato l'acquisto di Juan David Arizala. L'esterno colombiano classe 2005 arriva a titolo definitivo dall'Independiente Medellín con un contratto fino al 30 giugno 2030. È considerato uno dei talenti sudamericani nel suo ruolo e vestirà la maglia numero 20. Il Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste ospita la presentazione al pubblico del balletto del Teatro dell'Opera di Roma, un trittico dal titolo Serata Petit Beldon Pastor, un appuntamento che segna il debutto a Trieste della compagnia romana con la partecipazione dell'Étoile e Leonora Abbagnato. Interverranno il sovrintendente Giuliano Polo e il direttore artistico Valerio Vicari alle 17 nel ridotto Victor de Sabata. Immagini e film celebrano un quarto di secolo della fondazione della Friuli Venezia Giulia Film Commission e raccontano 25 anni di cinema in regione. Ad omaggiare l'anniversario è la serata al Teatro Miele alle 18:30 con la conversazione in videocollegamento con il regista Marco Bellocchio, affiancato in sala dall'attore e produttore Pier Giorgio Bellocchio, figlio del regista. Si parte invece già alle 18 negli spazi della Casa del Cinema con la presentazione della mostra fotografica 25 anni di FVG Film Commission, un percorso per immagini che ripercorre un quarto di secolo di produzioni cinematografiche e audiovisive realizzate in regione, mettendo in luce soprattutto il legame tra il linguaggio cinematografico e il territorio. A seguire alle 20 la proiezione di Bella Addormentata, film quasi interamente girato in regione, che inaugura ufficialmente la rassegna cinematografica, che si concluderà poi mercoledì 14 gennaio alle 20:30 con lo Stadio di Wimbledon di Mathieu Almaric. Proiezione evento in pellicola 35 mm in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film, ambientato tra Trieste e Londra, è ispirato alla figura dell'intellettuale triestino Bobby Bazlen ed è il primo realizzato con il supporto della Friuli Venezia Giulia Film Commission. State ascoltando i ritmi di uno spettacolo unico ad unire musica, magia e poesia visiva. Dopo il successo della scorsa stagione, le Virtuose, i fratelli Mathias e Julien Cadets, affiancati dagli assistenti, tornano in Friuli Venezia Giulia per aprire il circuito ERT con uno show travolgente, prima tappa della tournée regionale, stasera alle 20:45 al Teatro Ristori di Cividale. Lo spettacolo toccherà poi altri 6 teatri regionali, domani il Pasolini di Casarsa, il 9 l'Odeon di Latisana, il 10 il Teatro Candoni di Tolmezzo, l'11 il Verdi di Maniago, il 12 il Teatro Modena di Palmanova e il 13 il Teatro Bonezzi di Monfalcone. Tutti gli spettacoli saranno in scena alle 20:45. Se invece i protagonisti della pittura del Novecento legati al territorio e alla cultura figurativa del nord Adriatico ai quali è dedicata la mostra alla Galleria Rettori Trivio in Piazza Vecchia 6 a Trieste. Sono Aldo Bressanutti, Gianni Brumatti, Oreste De Quel, Livio Rossignano, Luigi Spazzal e Dialama Stultus. L'inaugurazione è prevista alle 18. La seconda edizione del concorso internazionale biennale di violino Premio Franco Gulli si è conclusa ieri al Teatro Zancanaro di Sacile. I finalisti Yumiko Yumiba, Ludovico Parravicini e Junyu Wang si sono esibiti con l'orchestra La Serenissima, diretta da Mario Zanette. Yumiko Yumiba e Ludovico Parravicini hanno condiviso il primo premio, Junyu Wang il secondo. Sono le 12.55 minuti, l'assistenza tecnica è stata curata da Corrado Spunton e da Caterina Cabrelli, Valentina Veneruso ha collaborato in redazione, la nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14, poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, da Andrei Marusic e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.